Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buonasera, è ultima puntata del 2008 di Focus Economia, puntata particolare, borsa chiusa e come spesso facciamo raccontiamo l'anno, un anno orribile, beh, non saprei trovare altri aggettivi, lo raccontiamo inizialmente, lo racconteremo partendo dall'epicentro di questa crisi dove tutto è nato e tutto si è scatenato, anche se poi purtroppo le conseguenze le sta pagando l'economia globale e a maggior ragione l'Europa. Mi riferisco agli Stati Uniti d'America, un anno che doveva essere un anno importantissimo perché c'erano le elezioni americane, è stato un anno drammatico per gli Stati Uniti perché una crisi iniziata, lo ricordo, ad agosto del 2007, quella dei mutui subprime ad alto rischio e quindi che sembrava essere una cosa molto americana, di banche che avevano concesso ad americani a rischio mutui per comprare la casa, magari finanziati al 100%, si è tramutata con un effetto slavina, un effetto domino, in una crisi mondiale. Da finanziaria poi è diventata economica, da economica speriamo non diventi anche totalmente occupazionale, mi riferisco soprattutto all'Europa. La debolezza del sistema finanziario sarà oggetto anche di altri interventi. Qui vogliamo raccontare che cosa è successo. Lo facciamo con una voce che anche quest'anno ci ha raccontato l'America, non solo da un punto di vista economico, devo dire, ma qua di economia ci occupiamo. E mi riferisco al corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero, che è nostro ospite oggi. Buonasera, Mario. Buonasera, buonasera a tutti. Diciamo che non ti è mancato il lavoro quest'anno, no. per essere così eufemistici. Allora, andiamo indietro con la memoria. Agosto 2007 scoppia la crisi mutui subprime, molti manco sanno cosa sono, devo ammettere che noi stessi abbiamo avuto difficoltà a raccontarlo all'inizio, però il 2008 inizia con altri timori, inizia con le materie prime ai massimi, con un petrolio che si sposta verso i $100 al barile, poi arriva a luglio a 140, difficoltà delle imprese americane, di alcune banche americane, le prime svalutazioni, ma in definitiva si arriva all'estate con il grande tema delle materie prime, come si farà con un'economia che stava già rallentando, come si farà a produrre con le materie prime tutte ai massimi. Si rientra dall'estate e sostanzialmente lì scoppia il grosso del bubbone. C'è però chi, proprio in quel periodo, quando era il 15 settembre 2008, disse, ed è un economista che è stato spesso accusato di essere un gufo, una Cassandra, io ricordo che Cassandra aveva ragione, anche se portava un po' di sfortuna, predisse il fallimento di Lehman Brothers e soprattutto la crisi in atto. Ora è facile dirlo adesso, ma se qualcuno di voi avesse chiesto in giro a marzo, febbraio, Lehman Brothers potrà fallire, la domanda è no, le banche non falliscono, al massimo vengono acquisite ma non falliscono. Ora sentiamo il giudizio dell'economista Nouriel Roubini, che appunto già un anno fa predisse la crisi, quando il 15 settembre si capì che Lehman Brothers avrebbe chiesto la procedura che si chiama in americano Chapter 11, ossia la bancarotta. È un disastro finanziario. Siamo nel mezzo di una dura crisi bancaria e finanziaria che non può che peggiorare. Qualche mese fa avevo previsto il crollo di alcuni operatori del sistema. La prima è stata Bear Stearns, a marzo. Oggi è il turno di Lehman. Domani sarà la volta di Merrill Lynch, costretta a fondersi con la Bank of America. E non credo che Morgan Stanley e Goldman Sachs potranno restare a lungo indipendenti e quindi dovranno fondersi con istituzioni finanziarie maggiori. Non si tratta di una crisi legata soltanto ai mutui ad alto rischio, i subprime, ma anche ai cosiddetti prime, al sistema dei prestiti, al mercato immobiliare, a quello delle carte di credito, dei prestiti agli studenti e dei corporate bond. Ci sono state perdite per $3,000 miliardi e naturalmente la maggior parte di questi istituti è insolvente e ha dovuto ricorrere ad aumenti di capitale. Ma non è abbastanza, perché le perdite accumulate sono decisamente superiori alla loro capacità di accumulare capitale. Ecco perché tutte le banche dovranno essenzialmente unirsi ad altri istituti, altrimenti non sopravviveranno. Così l'economista Nouriel Roubini il 15 settembre. Il 15 settembre appunto ci fu il fallimento, la bancarotta di Lehman Brothers, travolta da 613 miliardi di dollari di esposizione di debiti, con un valore di borsa che era crollato da 40 a 2 miliardi di dollari nell'arco di un anno. E Rubinet già annunciava quello che poi sarebbe successo. In effetti Bank of America si è comprata Merrill Lynch, e poi due giorni dopo, 17 settembre, Federal Reserve e Tesoro salvano il colosso americano delle assicurazioni AIG con 85 miliardi di prestito. Aveva già effettuato svalutazioni per 25 miliardi ed è solo l'inizio. Mario Platero, in quel giorno di settembre si capì che la crisi era ampiamente più grande delle attese. Col senno di poi c'è chi dice, l'ho detto anche il nostro Presidente del Consiglio, che l'errore, cioè lasciar fallire Lehman Brothers, è un errore capitale, cioè si è dato al mercato ancora più insicurezza, si è data la sensazione che tutto potesse venire giù, forse, anche se la storia non si fa con i se e con i ma, forse se avessero salvato Lehman, come poi hanno salvato AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, altre banche, forse la crisi sarebbe entrata, secondo te, in una fase meno virulenta? Ma guarda, questo è uno dei punti centrali del dibattito. Molti dicono di no, molti dicono che con o senza Lehman la crisi sarebbe stata comunque una crisi profonda, e ti dirò che quel weekend, che è stato veramente un weekend di svolta tra venerdì, sabato e domenica appunto 15 settembre, quando poi Lehman annunziò si capì che non c'era più l'affare con Barclays Bank, è stato un weekend di fuoco. Perché? Perché se possiamo ricostruire tutta quella settimana, è una settimana molto interessante. Il governo interviene per salvare Fannie Mae e Freddie Mac la domenica prima e si augura che il mercato reagisca bene, la più grossa nazionalizzazione della storia americana, e il governo si schiera completamente a favore di questi due colossi, ricordiamolo, che garantiscono i mutui immobiliari in America, quindi sono il pilastro centrale del sistema tra banche e mutui. Ecco, a quel punto la speculazione si sposta su Lehman e il titolo Lehman comincia a indebolirsi moltissimo nei primissimi giorni, già martedì, mercoledì, panico, si dice dobbiamo fare qualcosa per Lehman, Barclays e Bank of America vengono fuori, ma il negoziato è difficile. Finalmente venerdì prende corpo l'idea che una delle due vada a comprarsi Lehman Brothers, ma che succede venerdì? Succede che altri due titoli vengono attaccati dal mercato e perdono tra il 30 e il 40%, ciascuno appunto Merrill Lynch e AIG, il colosso assicurativo. Quindi le autorità entrano nel fine settimana negoziando il salvataggio Lehman, sicuri che come la settimana prima avevano salvato le due grandi dei mortgage e dei mutui, allo stesso modo, salvando Lehman, la speculazione si sarebbe buttata contro Merrill e contro AIG, e quindi non c'era niente da fare. E quindi decidono una operazione molto rischiosa, decidono che si salva soltanto chi costituisce un pericolo sistemico, e Merrill Lynch, ma in particolare AIG, sicuramente rappresentavano un rischio più sistemico di quello che sembrava rappresentare Lehman, e quindi si dice non ci sarà un intervento politico. Ora, lo sviluppo più interessante, perché qui si aggiungono tasselli di giorno in giorno, è che il negoziato su Lehman andò avanti tutto il weekend, ci si focalizzò su Barclays Bank, Geithner dirottò subito sabato Bank of America su Merrill Lynch per cercare di giocare d'anticipo sulla reazione dei mercati, e si cominciò a lavorare a un pacchetto di salvataggio per AIG. A quel punto che succede? Che domenica pomeriggio, mentre tutti ormai davano per scontato che un qualche salvataggio di Lehman sarebbe stato possibile e che Barclays sarebbe intervenuta, quando l'accordo era stato fatto, c'erano la banca cattiva e la banca buona, c'erano una serie di impegni sottoscritti da banche americane, mi pare 7 banche che avevano sottoscritto un pacchetto da 30-35 miliardi di dollari da dare in garanzia a Barclays, intervengono le autorità inglesi, e qui entriamo in un territorio di primizia. Ne ho parlato proprio l'altro giorno con una persona che lavora con Paulson al Tesoro, e questa persona mi ha detto che l'ordine di bloccare l'operazione a Barclays è venuta dalla Banca Centrale d'Inghilterra, e questo si sapeva, ma secondo lui è venuta in particolare da Gordon Brown, il quale Gordon Brown non voleva correre rischi per il suo sistema più forte di quelli. Anche che perché era l'Inghilterra con la Svizzera è il paese, la Gran Bretagna, più toccato da questa crisi. Io ricordo che Royal Bank of Scotland ha avuto 15 miliardi di euro di svalutazioni, solo per citare uno dei primi titoli in Gran Bretagna. Il weekend che Mario Patero stava raccontando è il weekend più drammatico, forse, perlomeno quello a cui tutti erano meno pronti, e da lì poi inizia a venire giù un po' tutto. Importante quanto Mario Patero ci ha appena raccontato, il governo americano capisce che se salva Lehman poi il fuoco si sposta su un altro titolo e capisce che il gioco è un gioco a massacro, che non basta salvare, come aveva già fatto, due titoli importanti, perché il fuoco è un fuoco ad alzo zero, e decide di non sprecare altri soldi, di salvare solo, come tu ricordavi Mario, quei soggetti che hanno un valore sistemico, cioè che se viene meno chi garantisce come AIG, il primo gruppo assicurativo in America, il problema diventa sociale, politico, di tenuta. E anche per dare un segnale al mercato, anche per dire attenzione, non siete tutti salvabili. E questa sembra una strada, diciamo, americana, seria, che il mercato può leggere. Come la legge il mercato? Beh, la legge come abbiamo ricordato, nel senso che iniziano a svalutare anche gli altri titoli. Si inizia a parlare di un piano polso, ma soprattutto siamo ancora in quella settimana lì, il 19 settembre Paul Krugman, che un mese dopo vincerà il premio Nobel per l'economia, in televisione in America già indicava i grandi responsabili di questa crisi, che poi è l'altro tema assieme alle paghe dei manager di questa crisi finanziaria. Sentiamo Krugman il 19 settembre. We're probably just the beginning. I mean, probably we don't have everything meltdown. Probabilmente siamo solo all'inizio. Non è che sia crollato tutto nei giorni scorsi di cali di borsa, ma è anche vero che non è ancora chiaro se hanno veramente un piano di salvataggio che possa funzionare. Stanno pensando a qualcosa, certamente. C'è molta discussione intorno a questo aspetto. Credo che attualmente lo scenario migliore, più ottimista, è che l'economia viva momenti negativi ancora per un anno e che il mercato immobiliare sia negativo ancora per i prossimi due anni. Ma il piano a cui si sta pensando non rappresenta una risposta. È solo un modo per cercare di evitare il disastro. Guardando a quello che sta succedendo in questi giorni, pensavo che fosse la fine del mondo. E probabilmente hanno pensato la stessa cosa al Tesoro. È la crisi peggiore che abbia mai visto. La peggiore. Il sistema finanziario è fuori controllo e abbiamo bisogno di un governo migliore di quello attuale. Non è solo colpa di Bush. Punto il dito anche contro Alan Greenspan. Ma in questa crisi abbiamo visto emergere la filosofia di questa amministrazione. Ed è il risultato di una strada imboccata negli ultimi 20 anni. Insomma, Mario Patero, non possiamo andare sull'Accademia, però è chiaro che questa crisi, diventando sempre più sistemica, strutturale, ha rimesso in discussione alcuni valori del capitalismo recente. Io sono d'accordo con chi dice che non esiste il capitalismo, esistono i capitalismi. Però il capitalismo degli ultimi 20 anni, finanziarizzato, in cui la finanza dà olio da motore dell'economia, è diventata, diciamo, essa stessa motivo dell'economia, salta per aria. Tra l'altro quello che poi sarà il premio Nobel dell'economia, Krugman, accusa Bush, Greenspan, tassi troppo bassi. Fa sorridere adesso che l'America ha rinunciato ad avere un costo del denaro, per cui i tassi di interesse sono a zero. Ti chiedo, alcuni dicono, beh, è una cosa paradossale che nel mondo capitalista il denaro non smetta di avere un suo prezzo. Ti chiedo, la riflessione a che punto è? Perché mi sembra che stiamo ancora ragionando molto sull'emergenza, ma quanto autorità di governo e di controllo e la riflessione complessiva si sia ancora in là col tempo. C'è stata di fatto una nazionalizzazione, statalizzazione dell'economia su base mondiale? C'è stato sì un salvataggio dell'economia su base mondiale, un intervento dello Stato, ricordiamolo, un'economia di mercato non prevede che non ci sia un ruolo dello Stato. Occorre che sia un ruolo di controllore, e questo purtroppo è mancato chiaramente in passato. Occorre che ci sia un ruolo di intervento con la politica monetaria, questo accade tutto il tempo. Proprio Greenspan, come diceva Krugman, in qualche modo è stato responsabile almeno di una parte di questa crisi, perché, e questa è una mia impressione, ma a un certo punto ha tenuto i tassi di interesse straordinariamente bassi a cavallo del 2004 per aiutare George W. Bush, che si presentava alle elezioni. La mia tesi è che Greenspan si sentiva in colpa perché nel 92 tenne una politica monetaria restrittiva, allentò troppo tardi, l'economia non si riprese e George Bush Senior alla fine andò a perdere alle elezioni contro Bill Clinton, e Greenspan si sentiva in qualche modo da una parte in colpa, dall'altra in debito, e non volle correre dei rischi, e quindi decise di tenere una politica monetaria eccessivamente accomodante. Ecco, questo ha creato la bolla immobiliare, che è stata poi difficile da sgonfiare, quindi ci siamo trovati un po' in questa situazione di crisi. L'intervento a quel punto più marcato dello Stato è chiaro, inevitabile, non possiamo far affondare la barca, mandiamo l'emergenza, il salvataggio, mandiamo i pompieri a spegnere l'incendio, e questo è il ruolo che ha avuto lo Stato. L'augurio di tutti è che sia un ruolo temporaneo. Non è, questo bisogna sottolinearlo, secondo me è molto importante, perché in Europa poi spesso vediamo le cose da punti di vista diversi rispetto a quelli americani, ma questa non è una nazionalizzazione, una statalizzazione o comunque un ingresso dello Stato nella gestione di certe aziende private determinata da una motivazione ideologica, ma è un intervento determinato da necessità. Ecco, sono due posizioni ovviamente molto diverse, perché quando la Francia di Mitterrand fece delle nazionalizzazioni, le fece motivate, certo, non da necessità ma da ideologia. Quindi questo è il primo punto. Ultimo punto è che abbiamo un intervento della Federal Reserve, un intervento del Tesoro. Questi ormai hanno dato quello che potevano dare con allentamento politica monetaria e stanziamento di pacchetto di aiuti, famosi 700 miliardi. A questo punto la terza gamba la aspettiamo. Forse l'avremo già il 20 gennaio, il giorno dell'inaugurazione. Barack Obama annuncerà un piano da 600 miliardi, da 1000 miliardi di dollari, un piano di stimoli per l'economia. Sì, tra l'altro il conto dei soldi ormai è difficile anche farlo, perché tu ricordavi, primo intervento da 700 miliardi, 750 miliardi, piano Paulson. Poi c'è stato un altro del 25 novembre, totale 800 miliardi. Poi la Fed si farà carico di prodotti, 800 perché 600 sono la Fed che si fa carico di prodotti a rischio, e 200 miliardi di supporto alle imprese. Quindi siamo già a spanne, diciamo, sui 1500 miliardi di intervento complessivo. Più manca all'appello il piano di Obama. Questo per dare le dimensioni di una crisi. Quando Deutsche Bank disse che sarebbe costata 1000 miliardi di dollari a livello mondiale, tutti pensavano che fosse una pazzia. Siamo ampiamente al doppio, se tanto mi dà tanto. Comunque, l'altro tema che è emerso da questa crisi è la responsabilità di Bush, la responsabilità di Greenspan, cioè di chi doveva tenere, ma la responsabilità dei manager. Si è scoperto che la maggior parte dei manager di Bernstein in bancarotta, di Freddie Mac, Fannie Mae, di Lehman Brothers, guadagnavano cifre stratosferiche. Tra l'altro si è scoperto, per modo di dire, che nell'arco di 20 anni, cioè 30 anni, dagli anni 70 agli anni 2000, insomma negli anni 70 il capo azienda, il capo manager guadagnava 35 volte, il dirigente guadagnava 35 volte il suo dipendente, si era arrivati tra bonus e resto a 275 volte. Sentiamo Richard Fold, per 25 anni a capo della Lehman Brothers, appunto, aveva guadagnato 40 milioni di dollari solo nel 2007, ha incassato complessivamente cifre da vicino al miliardo solo di azioni, 500 milioni di dollari. Sentiamolo in audizione parlamentare. We had a long dated compensation system. Look, I am not proud of the fact. Avevamo un sistema di remunerazioni ben rodato. Non sono orgoglioso del fatto che ho perso così tanto denaro, ma è stato dimostrato un fatto, e cioè che il nostro sistema di remunerazioni funzionava. Ripeto, non sono orgoglioso di questo, ma quando la società ha iniziato ad andare male, io ero il maggior azionista singolo. Non mi aspetto che siate dispiaciuti per me. Voglio però sottolineare che il sistema ha funzionato. Non abbiamo ingannato i nostri investitori, lo nego fermamente. Ho fatto il meglio che potevo, date le informazioni a disposizione. Abbiamo compiuto azioni che credevamo assolutamente appropriate. Come tante altre istituzioni finanziarie, anche Lehman Brothers è caduta in questo tsunami finanziario. Voglio essere molto chiaro su un punto. Mi assumo completamente la responsabilità delle decisioni e delle azioni prese. In base alle informazioni disponibili, credo che le decisioni e le azioni intraprese siano state sia prudenti che appropriate. Nessuno di noi ha la capacità di portare indietro le lancette dell'orologio, ma con il senno di poi, se mi chiedete se avrei fatto le cose diversamente, rispondo di sì, avrei agito diversamente. Lehman Brothers è stata minata da molti fattori destabilizzanti: il crollo del mercato immobiliare, false voci, abbassamenti di rating da parte delle agenzie, calo di fiducia della clientela. Ripeto, questa non è solo la storia di Lehman Brothers, è una storia diventata oramai troppo familiare. È troppo tardi ormai per Lehman, ma il governo è stato costretto a cambiare le regole in modo significativo e ora fornisce il sostegno a diverse istituzioni. Avevamo a disposizione un comitato di remunerazione che ha lavorato moltissimo per assicurare che gli interessi dei vertici e dei dipendenti fossero in linea con quelli degli azionisti. I miei dipendenti possedevano circa il 30% della società e questo perché volevamo che pensassero, agissero e si comportassero come azionisti. Quando la società era in buone acque, anche noi lo eravamo. Quando ha avuto problemi, anche noi li abbiamo avuti. La maggior parte del mio compenso veniva sotto forma di azioni e la maggior parte di quelle azioni erano in mio possesso fino al momento del fallimento. Riguardo la cifra di 500 milioni di dollari come mio compenso nell'arco di diversi anni, credo che non sia giusta. Stiamo parlando di 60 milioni di dollari, sebbene sia ancora una cifra molto alta. Credo che complessivamente il totale sia di poco meno di 250 milioni, una cifra comunque molto alta. Allora, Mario Pateo, nel raccontare questa crisi, visto che siamo arrivati a metà fine ottobre, insomma, il tema dei manager strapagati che hanno fatto fallire banche, abbiamo raccontato storie incredibili, Burns Stearns, 40 persone che erano in vacanza in Florida, se non ricordo male, con straspesati, con aerei personali, camera a $1,500 a notte, il weekend in cui poi Burns Stearns è fallita e chiesti dal congresso di spiegazione. Noi in agenda avevamo già previsto la convention, mica avevano previsto in agenda la crisi. Cioè, qualcosa non ha funzionato in tutto il meccanismo, diciamo, dei manager e di legare il manager alle stock option, alle azioni, ai bonus. Allora, guarda, su Burns Stearns in particolare, Kane, l'amministratore delegato, il giorno in cui le cose si mettevano male per i due fondi era a giocare a bridge. Col telefono spento. Perché non voleva essere disturbato. Non si sa mai disturbato. Che la mano potesse essere disturbata. Era un torneo importante, diceva, e quindi assolutamente non poteva essere disturbato. Ecco, questo per darti un'idea dell'atmosfera. Così un po' da fine d'impero in cui queste persone vivevano, non si rendevano conto di quel che capitava. Ho incontrato Fuld pochi mesi prima della crisi, ho incontrato il capo di Citigroup, Chuck Prince, pochi mesi della crisi. Ecco, continuavano a mostrare una certa spavalderia, un certo ottimismo, a spiegarmi perché era importante fare determinate operazioni rischiose che aumentavano le possibilità di profitto e quindi di valore aggiunto sul turnover della banca. Ecco, mi rendevo conto che c'era qualcosa di profondamente sbagliato. Allora, c'è chi dice che la colpa è dei fondi pensione, i quali chiedono una performance alle aziende in termini di aumento del titolo. C'è chi dice che la colpa invece è delle opzioni e che quindi i manager, visto che possono incassare delle opzioni e possono in qualche modo beneficiare dall'aumento del prezzo del titolo, fanno operazioni sempre più speculative per a breve avere degli aumenti del titolo senza poi preoccuparsi troppo di quello che succede a lunga. Quando dico breve dico anche 2-3 anni e a lunga 5 o 7 o 8 anni. E c'è chi dice anche che sia l'intero sistema che sia stato pervaso da questo culto dell'ossessione del risultato a breve. Risultato a breve, il profitto, il guadagnare quanto più possibile. Insomma, c'è stata un'orgia, di denaro. E quello che tu dicevi e che ricordavi è sacrosanto e giustissimo. Siamo passati da un rapporto di 35 volte il salario del top manager rispetto al lavoratore, all'impiegato, all'operaio. Adesso eravamo arrivati a oltre 200, c'era cioè una sperequazione che non poteva essere sostenuta. E poi delle volte la storia in generale, quindi anche la storia di questa crisi, viene più raccontata dai casi di, appunto, di vertici di Burns Stearns che giocano a bridge, di quelli che vanno in vacanza perché ormai l'avevano programmata, che non dalle cifre. Cioè, la fine dell'impero, chi balla il valzer sul Titanic dice molto di più di tante altre cose sulla fine di un'epoca. Ecco, c'è anche un'altra cosa che secondo me è molto interessante, che caratterizza il management, e cioè che proprio in questo periodo abbiamo visto una leadership forte della politica e abbiamo visto invece una nebbia totale da parte di questo management, ma non soltanto nelle banche, l'abbiamo visto anche nel settore automobilistico, manager che non riuscivano a fare. Questo è diametralmente opposto a quello che capitava negli anni Ottanta, ricordiamolo, con la rivoluzione di Reagan era l'imprenditoria, erano i manager che tiravano e la politica era paralizzata. Seguiva. Oggi è davvero il viceversa, queste persone non si rendono conto di dove siamo e dove stiamo andando. Forse perché vivono in un mondo che non è esattamente il nostro, è una mia più piccola. Ti dirò, appunto, anche se gli è andata male, quando hanno 50 milioni di dollari da parte, ce la puoi fare. Non è una gran preoccupazione. A mangiare il panettone ce la puoi fare, ma tra l'altro vedere i numeri uno di General Motors e Chrysler col cappello in mano, prendere il treno, non il jet privato, questa è storia delle ultime settimane, pur di arrivare in ginocchio e chiedere degli aiuti, la dice lunga. Arriviamo alle ultime settimane, quindi perché nel frattempo va in difficoltà anche Washington Mutual, che fallisce, è il fallimento maggiore di una banca nella storia americana. Lloyd compra HBO in Gran Bretagna, ma insomma si arriva poi al fronte della crisi che da finanziaria, poi parleremo anche di borsa nella seconda parte del programma, si sposta l'economia. Le prime a saltare sono i colossi americani, le tre sorelle di Detroit. È di pochi giorni fa, di poche settimane fa, la notizia che del via libera del piano da 15 miliardi di dollari fino a marzo per salvare Chrysler e General Motors, ma soprattutto viene eletto, questo diciamo già era avvenuto, ma c'è il primo intervento del neo presidente, del futuro presidente Barack Obama, il quale dice: attenzione, a inizio dicembre occorre un New Deal per il 21esimo secolo. Di nuovo con Sebastiano Barisoni per questo speciale di Focus Economia del 31 dicembre, in studio in questo momento Mario Platero, e siamo arrivati nel ripercorrere il 2008, soprattutto negli ultimi mesi, quelli più drammatici si può dire, sì, dal punto di vista finanziario e economico degli Stati Uniti. Siamo arrivati a quando parla, ho detto per la prima volta, chiaramente non è la prima volta, è il primo intervento di Barack Obama specificatamente sulla crisi. E Obama fa capire a inizio di dicembre che appena si insiederà alla Casa Bianca, quindi dal 20 gennaio in poi, il piano non sarà un piano di così aiuto all'economia, ma c'è bisogno di un qualcosa di molto diverso. E lì ritorna il termine New Deal, un nuovo accordo, diciamo, sociale, se possiamo tradurlo così. Sentiamo. We faced difficult times before. And at each moment we have risen to meet the challenge. Abbiamo affrontato momenti difficili in precedenza. Ogni volta abbiamo accettato la sfida e sono convinto che gli americani risponderanno ancora una volta. Ma occorre agire adesso. Ecco perché ho chiesto al mio team economico di sviluppare un piano per la ripresa economica sia per Wall Street che per Main Street, ossia per i cittadini comuni. In questo modo verranno creati o salvati 2,5 milioni di posti di lavoro attraverso investimenti in infrastrutture, ricostruendo le scuole, riducendo la nostra dipendenza dal petrolio e risparmiando miliardi di dollari. Voglio annunciare alcuni punti chiave del piano. Primo, con uno sforzo straordinario renderemo più efficienti tutti gli edifici dal punto di vista energetico. Il nostro governo paga le bollette energetiche più care al mondo. Dobbiamo cambiare questa situazione. Secondo punto, creeremo milioni di posti di lavoro mettendo in piedi il più grande programma di infrastrutture dagli anni 50. Investiremo il denaro dei contribuenti in modo nuovo e migliore e verrà seguita una sola semplice regola: o si usano i fondi o si perdono. Se uno Stato non agisce velocemente, investendo in strade o ponti, allora perderà il denaro. Terzo punto, verrà compiuto un grandissimo sforzo per ammodernare tutte le scuole del paese, per renderle efficienti dal punto di vista energetico. Forniremo nuovi computer in ogni aula. Non vogliamo rinnovare solo le nostre autostrade, vogliamo rinnovare anche le autostrade informatiche. Inoltre, dobbiamo assicurare che tutti gli ospedali siano in contatto tra loro tramite internet. Il piano che sto proponendo servirà ad ammodernare il sistema sanitario. Dobbiamo agire con l'urgenza che richiede il momento attuale per salvare o creare almeno 2,5 milioni di posti di lavoro. Così i 2 milioni di persone che hanno già perso il posto sapranno che per loro c'è un futuro. Allora, Barack Obama, inutile dirlo, abbiamo raccontato le elezioni, la speranza. Insomma, Mario Platero, per chiudere questa parte dedicata all'America, l'epicentro della crisi, con un po' di ottimismo, non solo della volontà ma anche della ragione. Chiaro che la crisi continuerà a scaricare i suoi effetti perlomeno fino a metà del 2009, ma da Obama è come segnale per il resto del mondo che cosa può concretamente arrivare al di là dei piani di salvataggio? Beh, un anno straordinario questo, perché dalla disperazione con cui è partito e con cui ci siamo trovati a settembre c'è stata poi, come tu stesso hai ricordato, la grande speranza di Obama, ed è questo che Obama può portare davvero speranza, motivazione, leadership, la forza di andare avanti e di reagire. È stata una svolta veramente incredibile sul piano psicologico. Direi è stata la svolta che mancava per dare al paese quell'iniezione di poter fare, di l'America è un paese che può davvero, l'unico paese al mondo, sopportare un risultato di questo genere, un paese che resta comunque al di là di tutto, un paese vivo che riesce a guardare in avanti. Ecco, questo è molto importante perché, come tu mi insegni, una crisi economica e finanziaria al di là delle iniezioni ha bisogno anche di un minimo di fiducia, di ottimismo, di grinta, di capacità energetica di portarsi in avanti. Ecco, questo Obama lo ha portato, è arrivato con una visione straordinariamente pragmatica, e un uomo che durante le elezioni si è molto spostato a sinistra, è riuscito a conquistare la base del suo partito, a sbaragliare la campagna di Hillary Clinton, si è poi buttato con straordinaria precisione su McCain, è un uomo straordinariamente disciplinato, coerente, controllato, intelligente. Ecco, sono tutte qualità fondamentali nel momento in cui la nave è in burrasca. Nervi saldi, ha dimostrato di averli, ha già nominato tutti i suoi ministri, il gabinetto di Obama è a posto, prevede di presentare per la firma, perché ci sta lavorando in questi giorni, il piano da quello sapremo se sono 600 o 1000 miliardi, e dunque è un uomo che improvvisamente si è spostato al centro, ha fatto delle nomine fra virgolette sagge che sono piaciute al mercato, si è reso conto che deve comunque giocare col mercato perché questo mercato prima o poi a un certo punto dovrà rimbalzare, quindi direi tutto positivo quello che finora è venuto fuori dall'amministrazione Obama. Allora, buon anno anche a te Mario Platero, che continuerà a raccontarci questa crisi anche e i suoi sviluppi. Tutti ci auguriamo i suoi miglioramenti nel 2009. Buon anno a tutti. E adesso dalla crisi, dal punto di vista diciamo, della crisi e della narrazione dell'epicentro americano, ci spostiamo a quello che invece è successo in borsa. Eh sì, perché insomma lo abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ma chiaramente il 2008 è stato l'annus horribilis per le borse in generale e Piazza Affari non ha fatto eccezione. I dati sono arrivati due giorni fa, meno 50% l'S&P MIB, meno 49% il MIB, si è dimezzata la capitalizzazione della borsa italiana. Devo dire che non è che le altre borse europee abbiano fatto molto meglio, in questo caso è difficile però anche dire mal comune mezzo gaudio. Dimezzata perché la capitalizzazione è scesa da più di 700 miliardi del dicembre 2007, cioè 731 miliardi, il valore dei titoli quotati in borsa, moltiplicando il numero di azioni per il valore di ogni singola azione. Ebbene, siamo scesi da 731 miliardi a 378. Le maglie nere le avete lette, Fiat, Unicredit, Seat pagine gialle, queste le società che hanno perso di più. Seat pagine gialle ha perso il 78% del suo valore, Fiat il 73% rispetto a un anno prima, Unicredit il 70%, il Banco Popolare il 66%. In questa poco invidiabile classifica seguono Pirelli, meno 64% in un anno, L'Espresso meno 60%, A2A meno 59%, Geox meno 58%, Saipem meno 56%, Impregilo meno 56% anch'essa. E poi a Parigi 600 miliardi in meno di capitalizzazione, in Francia si scrive e si dice addirittura discesa agli inferi per le borse. E poi è uscito il rapporto, quindi queste cose le avete già lette nel rapporto, nella guida al risparmio nel 2008-2009 che alcuni di voi mi auguro abbiano comprato assieme al Sole 24 Ore lo scorso, cioè ieri martedì, era in omaggio infatti con il Sole 24 Ore. Siamo in collegamento con chi l'ha curata, oltre con chi era anche responsabile dell'inserto Plus, la guida al risparmio del Sole 24 Ore, Marco Liera, buonasera. Buonasera a voi Sebastiano, buon anno a tutti. Sì, chiaramente buon anno anche a te Marco Liera. Allora, nella guida al risparmio 2008-2009 immagino abbiate avuto un compito più difficile del solito, Marco, perché dire in questo momento dove mettere i soldi penso che sia quasi un'operazione da oracolo più che da analista. Però iniziamo col capire, col ricordare che cosa è emerso dalla guida, poi vedremo anche i migliori e i peggiori come risultati del 2008? Sì, nel nostro speciale ovviamente abbiamo raccontato alcune delle previsioni dei professionisti della finanza, che mai come quest'anno si sentono veramente a disagio nel formulare qualsiasi aspettativa. E devo dire che in questa fase quasi la loro preferenza è per non essere troppo impopolari, quindi a questo scopo preferiscono suggerire di stare tranquilli nel rifugio della liquidità nei titoli di Stato, proprio per non scatenare reazioni avverse in capo ai risparmiatori, perché se qualche gestore, qualche consulente finanziario professionale ai suoi clienti in questa fase di investire una quota dei suoi risparmi in azioni, penso che quel risparmiatore magari metterebbe mano alla pistola, e quindi il gestore che vuole evitare di rendersi impopolare allora gli dice: ma cerca di stare tranquillo, non allontanarti dai bot, anche se rendono molto poco, il 2% lordo all'ultima asta, però con l'anno che è alle spalle effettivamente l'avversione ai rischi ai massimi livelli. Eppure bisognerebbe anche approfittare di queste crisi per cercare di ricostruire i risparmi personali con un orizzonte che non vada qui a un mese o a sei mesi, ma vada qui ai prossimi anni, e i prossimi anni non saranno di crisi nera come quello che sta alle nostre spalle. Non sto facendo una previsione azzardata, ma sicuramente le crisi accadono, nella storia dei mercati ce ne sono state tante, ce ne sono state anche gravi, e ogni volta l'economia e i mercati sono riusciti a risollevarsi. Sì, tra l'altro va detto che secondo alcuni economisti la parte più grossa, o perlomeno buona parte della crisi finanziaria si è già scaricata. Ora che la crisi si sia trasformata da finanziaria in economica lo vediamo tutti, però sappiamo che la borsa anticipa sempre, per cui può essere ragionevolmente che la borsa riparta prima della cosiddetta economia reale, cioè che gli indicatori sul PIL, sul fatturato dell'impresa, sull'export restino molto brutti nei primi mesi, anzi è abbastanza una certezza dell'anno, e che magari la borsa li abbia già scontati nel passato, Marco, e possa ripartire qualche mese prima rispetto ai dati cosiddetti macroeconomici. Beh, certo, la borsa non aspetterà la ripresa dell'economia per tornare a salire, ma lo farà prima. Certo, è difficile individuare adesso quale potrà essere il detonatore, cioè il meccanismo che scatenerà un eventuale rialzo dei listini azionari. Potrebbero essere i risultati trimestrali, potrebbero essere non so, anche dei dati sulla diminuzione della riduzione del credito alle imprese, quindi una riduzione del fenomeno del credit crunch. Questo potrebbe essere un segnale interessante, però i risparmiatori dovrebbero fare attenzione anche ad applicare queste relazioni causa-effetto, perché i mercati sono, sto dicendo una banalità assoluta, sono totalmente imprevedibili, e quindi anche quando un risparmiatore, un investitore che ha studiato, cerca di applicare questi meccanismi, succede poi che questi meccanismi non funzionano. Diverso è il caso invece di un investitore che, senza star lì a cercare di indovinare quale sarà il momento in cui i mercati azionari ripartiranno, cerca di dedicare una quota parziale dei suoi risparmi all'investimento azionario, magari incrementandolo nel tempo, approfittando degli eventuali ribassi che potrebbero continuare a esserci da qui anche nei prossimi mesi. Eh sì. Intanto vediamo quello che ha reso un investimento di 1000 euro nel 2008. Adesso euro in più, euro in meno, poco conta, ma se un ascoltatore avesse investito 1000 euro a inizio gennaio dell'anno che praticamente con oggi termina in titoli di Stato americani, avrebbe guadagnato circa 290 euro. In oro 47 euro, così come in BTP italiani 45 euro, praticamente nulla, e anche in bot 37 euro. In fondi di liquidità 20 euro e in fondi obbligazionari circa 13 euro. Se poi invece avesse investito in fondi flessibili avrebbe perso 140 euro, in fondi azionari avrebbe perso circa 400 euro. Della borsa abbiamo già detto, avrebbe perso metà dell'investimento se avesse investito, quindi circa 500 euro, nell'indice S&P MIB, per non parlare poi dei titoli peggiori che ricordavo che ricordavo prima. Marco, ci sono le informazioni per chi in viaggio, però poi vorrei anche una tua riflessione, senza sparare sulla Croce Rossa, perché mi rendo conto che in questo momento parlare degli analisti e dei gestori sia un po' come sparare sulla Croce Rossa, però una difficoltà strutturale nel risparmio gestito, insomma, a contenere le perdite quando il mercato va molto male e a fare meglio del mercato quando il mercato va bene, con una lettura anche in prospettiva, perché la fuga dai fondi è stata così forte, così consistente da far temere per l'esistenza stessa del settore. Ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia, che terminerà alle 18, puntata del 31 dicembre. Borsa chiusa, ma di borse e investimenti stiamo ragionando con Marco Liera, responsabile di Plus del Sole 24 Ore e della guida Risparmio 2008-2009, uscita ieri in omaggio con il quotidiano Sole 24 Ore. Marco Liera, un commento, poi arriveremo anche alle graduatorie dei migliori e dei peggiori che voi avete stilato, ma insomma un commento sul risparmio gestito. Da un lato si è temuto, come dicevo, che il settore riuscisse ancora a essere in vita, dall'altro però anche in questo caso non abbiamo visto dei fondi saper così contenere le perdite, cioè svolgere quel ruolo, parlo in generale per carità, quel valore aggiunto che si chiede a chi appunto è un esperto di risparmio gestito. Ma come andiamo scrivendo e raccontando da anni, esiste una certa difficoltà da parte dell'industria del risparmio gestito a creare valore per i clienti, quindi a creare un valore aggiunto che giustifichi le elevate commissioni che vengono caricate ai fondi e quindi indirettamente alle tasche dei risparmiatori. Questo si è visto anche nell'ultimo terribile anno in cui non ci sono stati molti fondi, anzi solo una ristretta minoranza è riuscita a contenere le perdite rispetto alle gravissime perdite registrate sui mercati azionari, ma questo non è che una conferma di quanto si era già visto in passato. Mediamente in ogni dato anno solo un gestore su 10 riesce a battere il proprio indice di riferimento e quindi solo in un caso più 10 si può dire che abbia creato un valore tale da giustificare le commissioni percepite. C'è quindi un problema strutturale che riguarda l'industria del risparmio gestito non solo in Italia ma anche negli altri mercati più avanzati. Certamente la riflessione che viene fatta, che è stata fatta soprattutto quest'anno, è stata quella di magari guardare a quella parte dell'industria del risparmio gestito più indipendente, autonoma, perché risulta difficile fare convivere all'interno di grandi gruppi bancari che fanno tutto, e questo modello è stato fortemente messo in crisi dalla grande tempesta finanziaria del 2008. Ecco, quindi i fondi comuni, i gestori di fondi comuni all'interno dei gruppi bancari sono quelli che sono messi nelle peggiori condizioni per creare valori per i loro clienti, da qui gli appelli del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, e anche di altri illustri protagonisti del nostro mercato a separare la proprietà delle società di gestione del risparmio da quella dalle banche, diciamo dai grandi gruppi creditizi. Con una industria del risparmio gestito più indipendente, più autonoma, probabilmente anche con commissioni più basse, comunque commisurate al valore veramente creato, io penso che anche l'industria del risparmio gestito potrà ripartire su dimensioni molto più contenute rispetto a quelle alle quali eravamo abituati. Probabilmente i 600-700 miliardi di patrimonio dei fondi comuni erano una dimensione figlia di un'euforia, quella della seconda metà degli anni 90, in cui le banche erano convinte che si potessero vendere in modo indiscriminato ai clienti fondi comuni in assenza di un vero valore creato per il risparmio. E il valore aggiunto vuol dire che quando la borsa guadagna, guadagni un po' di più, e quando la borsa perde, perdi un po' di meno, intendiamoci su questo. Non è che un fondo potesse far guadagnare qualcosa con tutto il mercato negativo, però nemmeno, come si dice in gergo, replicare le perdite dell'indice, perché a questo punto uno si compra l'indice e almeno non paga le commissioni. In una battuta, Marco Liera, per chiudere questa parte con te, nelle graduatorie dei migliori e dei peggiori, quali sono, diciamo, gli elementi di maggior spicco? Non possiamo ripercorrere chiaramente tutta la guida al risparmio, che avete allegato ieri, ma insomma gli elementi più interessanti a tuo avviso perlomeno. Ma l'elemento interessante è che è stato un anno in cui tantissime classi di investimento sono andate male, quindi è stato veramente difficile per i risparmiatori sottrarsi a questa tempesta. Peraltro i titoli di Stato si sono confermati un investimento non correlato ai listini azionari, perché è stata l'unica categoria di attivo che ha registrato una buona performance nel corso del 2008. L'indice JP Morgan dei titoli di Stato area euro si è rivalutato di circa il 9% lordo, e questo è un dato da non dimenticare per quei risparmiatori che sono correttamente alla ricerca della diversificazione. Ebbene, anche un anno terribile come il 2008 ha dimostrato che chi diversifica i propri risparmi non fa assolutamente male. E lo diciamo anche noi, insomma, il miglior rendimento è stato quello in titoli, in obbligazioni americane, ha reso il 29% circa, per cui insomma stiamo euro più euro meno. Grazie e di nuovo buon anno a Marco Liera e a tutti i colleghi anche della redazione Plus del Sole 24 Ore. Alcuni di voi ci chiedono se l'investimento di cui, a cui facevamo riferimento dei 1000 euro fosse stato fatto in valute. Beh, l'euro sul dollaro da inizio anno ha perso anche qualcosa, un 5%. Se uno invece avesse comprato da sterline in euro avrebbe guadagnato un 28%, ossia l'euro si è rafforzato sulla sterlina di un 28%, così come se avesse venduto yen per comprare euro avrebbe guadagnato un 23%. Prima di chiudere, un paio di elementi positivi. Il petrolio, sicuramente nel 2008, dopo averci fatto tremare tutti, perché a luglio, l'11 luglio, ha toccato il record a $147 al barile. Dicevo, da inizio anno comunque il petrolio è in calo, meno 64% è il dato finale da inizio anno per quello che riguarda il prezzo del petrolio. L'oro ha avuto un incremento del 5%, gli altri metalli, parliamo del rame, meno 55%. Infine, i cereali, anche questo è un tema di cui molto ci siamo occupati nella prima metà del 2008, alla fine il calo complessivo dell'indice dei cereali è stato del 26%. In bocca al lupo a tutti gli ascoltatori, le auguro di un buon inizio anno, qualunque cosa succeda, noi ci risentiremo come sempre per raccontarvi anche nel 2009 la cronaca quotidiana dell'economia e della finanza. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento particolare poi a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno e Gaia Romani per l'aiuto che anche nel 2008 hanno dato alla realizzazione del programma. Ci risentiamo nel 2009.